2024 2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Ogni settimana cerchiamo di capire come la tecnologia ci cambia la vita e, come diciamo spesso, effettivamente negli ultimi anni la vita è cambiata molto. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024, molto semplice, 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile attraverso il sistema podcast della nostra radio, molto efficiente, molto comodo, perché vi permette di ascoltare i nostri programmi in altro momento tramite il file MP3 che potete scaricare dal nostro sito internet. Al termine della nostra trasmissione sarà disponibile quello di 2024. Cliccate su www.radio24.it nella sezione podcast. Sicuramente la notizia più importante della settimana è il cambio al vertice di Apple. Steve Jobs lascia l'ufficio dell'amministratore delegato, diventa presidente e al suo posto da mercoledì c'è Tim Cook. E molti hanno parlato della fine di un'era, quella iniziata almeno nell'ultima parte nel 1996, quando Jobs ritornò alla Apple, l'azienda che aveva fondato assieme all'altro Steve Wozniak nel 1976 e dalla quale era uscito 9 anni dopo. Per una visione diversa con l'allora amministratore delegato. In questi ultimi 15 anni Jobs ha trasformato l'azienda portandola dal rischio fallimento. Insomma, quando tornò Jobs l'azienda non andava molto bene. Oggi invece la Apple, lo sappiamo tutti, è addirittura seconda al mondo per capitalizzazione di borsa, quindi è tornata ad uno splendore tecnologico e finanziario incredibile. Jobs ha ridisegnato parte dell'elettronica di consumo a partire dalla musica digitale. È stata una grande trasformazione mettendo, pensate, la firma sull'iTunes e sull'iPod, due prodotti appunto che hanno cambiato la musica, ha cambiato le carte sulla tavola dell'industria della telefonia mobile e anche del cosiddetto mobile computing, sia con l'iPhone che con l'iPad. A lui si devono più che delle invenzioni una visione diversa su come sfruttare quello che c'era già e c'è già sul mercato, rendendolo più semplice, intuitivo all'uso. L'esempio che più frequentemente si fa è quello del touchscreen, che è una combinazione di hardware, ovvero la tecnologia del display, e di software. Il touchscreen esiste da parecchi anni, ma potremmo dire dal 2007, con l'arrivo dell'iPhone, è cambiato tutto. E infatti oggi quasi tutti gli altri produttori si sono messi in scia. Ho sempre detto che se fosse arrivato il giorno in cui non avrei più potuto fare fronte ai miei impegni, sarei stato il primo a dirlo. Sfortunatamente quel giorno è arrivato, scrive Jobs nella lettera di dimissioni. Il motivo di questa scelta, va ricordato, sono le condizioni di salute di Steve Jobs, il tumore al pancreas diagnosticato nel 2004 e il trapianto di 2 anni fa. Lo hanno già costretto ad abbandonare per ben 3 volte l'azienda e ufficialmente da gennaio Jobs è in congedo per malattia, anche se questo non lo ha certo fermato da 2 eventi pubblici negli ultimi mesi: a marzo per presentare l'iPad 2 e a giugno per l'anteprima di iCloud, questo nuovo servizio basato sul cloud computing che Apple lancerà in autunno. Saluto Antonio Dini. Antonio scrive sul Sole 24 Ore ed è sicuramente uno dei conoscitori più profondi del mondo Apple in Italia. Bentornato 2024. Grazie Enrico. È, come dicono alcuni, la fine di un'era, o il fatto che Steve Jobs rimanga in azienda non cambia molto le carte in tavola? È un po' di tutte e due, è in parte la fine di un'era, sicuramente, perché la rinascita di Apple è legata al ritorno di Steve Jobs come CEO, come amministratore delegato, però è anche vero che non solo lui rimane in azienda, ma soprattutto che chi ha fatto da braccio destro, cioè Tim Cook, la persona che negli ultimi anni ha lavorato assieme a Steve Jobs, lo ha già sostituito quando lui si è dovuto assentare per malattia e in questo periodo lo stava già sostituendo, era il piano per la successione. funziona, cioè è diventato lui l'amministratore delegato e questa è probabilmente la maggiore garanzia di continuità. Negli ultimi tempi c'è chi dice che nonostante la malattia Steve Jobs abbia seguito sempre in prima persona lo sviluppo dei prodotti. Secondo te succederà la stessa cosa anche da presidente? Un po' meno, sicuramente la presenza di Steve Jobs in azienda rimane, il senso del messaggio che lui ha dato, cioè che non era più in grado di fare il lavoro di amministratore delegato e per questo fa un passo indietro, vuol dire proprio che non è più in grado di gestire completamente le cose che accadono giorno per giorno. Si è molto discusso, molto dibattuto anche in termini di organizzazione aziendale su quale sia effettivamente il ruolo di Steve Jobs, che è in grado di seguire tutti i prodotti pur senza avere nessuna competenza tecnologica tale da essere determinante nella ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti. Tim Cook ha probabilmente la capacità di portare avanti la strategia è stata impostata e almeno per i prossimi 1-2 anni sarà quella impostata da Steve Jobs, vedremo, si capirà anche abbastanza dai fatti, da quello che uscirà dai laboratori, dalle fabbriche dell'Apple, se effettivamente c'è la continuità nello stile, nel modo di realizzare i prodotti che ha contraddistinto Steve Jobs o no. A proposito di prodotti, che cosa è in arrivo di prodotti già ideati che sicuramente portano la firma di Steve Jobs? Beh, quello che sicuramente porta la firma di Steve Jobs sarà la prossima generazione dell'iPhone, l'iPhone 5 e un poco più avanti la terza generazione dell'iPad. Entrambi questi prodotti sono sicuramente già stati provati e riprovati e attendono solo di essere finalizzati e di essere avviata la commercializzazione. Per gli amanti della tecnologia dietro ci sarà anche l'utilizzo di un nuovo processore per questo tipo di dispositivi che si chiamerà con tutta probabilità A6 ed altre soluzioni che verranno svelate quando saranno lanciati i prodotti. E tu pensi che Steve Jobs possa comunque partecipare alla presentazione di questi prodotti? No, è molto improbabile, anzi c'è un segnale fortissimo che lui abbia fatto questo passo adesso proprio perché non vede questa possibilità, che è arrivata da una notizia di cronaca forse passata un po' sotto il radar, ma interessante, ovvero negli Stati Uniti c'è la pubblicazione della biografia autorizzata a cui ha collaborato lo stesso Steve Jobs, che era prevista per l'inizio, se non sbaglio il marzo del 2012, e che invece è stata annunciata in un modo molto atipico, che sarebbe stata anticipata a ottobre-novembre di quest'anno, segno evidente che Steve Jobs vuole in qualche modo vedere il libro. Sì. Senti, questo Tim Cook chi è? È in azienda da molti anni, tu lo hai incontrato se non sbaglio? L'ho incontrato, l'ho visto, lui è l'anima operativa e finanziaria dell'azienda, anche se non ha la responsabilità di responsabile finanziario ma delle operazioni finora. È un personaggio molto singolare perché ha 51 anni, è un veterano di vari settori, ha lavorato anche in Compaq, in IBM, è arrivato in Apple all'inizio del XXI secolo, quando è tornato Steve Jobs, con un compito molto chiaro che è stato quello di razionalizzare il business. A lui si deve operativamente il fatto che Apple non produca più nessuno dei prodotti che progetta, ma vengano tutti esternalizzati, cioè lui ha gestito la dismissione di tutte le fabbriche, di tutti i centri di produzione di Apple a favore dell'esternalizzazione tipicamente in Cina. La cronaca non ha dettagli sulla vita personale di Cook, nessuno, non si sa neanche che macchina guidi. L'unica cosa di cui lui parla molto spesso è il fatto di essere un grande appassionato di fitness, ed è sostanzialmente l'unico argomento non di lavoro che, quando lo incontri anche per un'intervista, in qualche modo lo appassioni. Quindi diciamo che comunque è un uomo che conosce la filosofia e molto bene l'azienda. Benissimo, lui sostituì già nel 2004, quando Steve Jobs andò in malattia per quello che poi si è stato dichiarato essere una rara forma di tumore, lo sostituì operativamente, anche se non salì mai sul palco. Sul palco sono sempre andati altri personaggi hanno diviso il palco dei famosi keynote, dei discorsi in pubblico di Steve Jobs, anche in altre occasioni, cioè Phil Schiller, il capo del marketing, oppure i singoli responsabili di divisione. Invece Tim Cook è rimasto sempre dietro le quinte, è comparso solo di fronte alla stampa economica o agli analisti finanziari durante la presentazione dei risultati, e è una figura che conosce Apple di sopra e di sotto, a diritto e a rovescio, nel senso che l'ha gestita e ne ha non solo in parte dato la forma attuale, ma anche conosciuto nei suoi più piccoli dettagli. Era lui il candidato del piano di successione ufficiale e mai rivelato finora, che Steve Jobs ha sostanzialmente svelato, perché nella lettera in cui annunciava che si sarebbe dimesso da amministratore delegato ha anche sottolineato il fatto che per lui Tim Cook sarebbe stato il suo migliore successore e che il consiglio di amministrazione, come già aveva fatto nel piano segreto per la successione, avrebbe, se lo riteneva opportuno, dovuto nominare amministratore delegato, cosa che poi in effetti è successa. Raccontandoci di Cook, ci stai anche dicendo che dobbiamo abituarci ad un nuovo stile relativo alle presentazioni, perché la figura di Steve Jobs durante le presentazioni dei nuovi prodotti era comunque un motivo di grande interesse attorno a queste presentazioni. Probabilmente anche da questo punto di vista cambierà tutto. Certamente cambierà tutto, perché sul palco non ci sarà più questa figura carismatica, questo straordinario venditore capace di in qualche modo vendere frigoriferi agli eschimesi, come è stato detto. Quello che ci possiamo aspettare sarà una presenza corale delle persone che hanno contribuito a formare la squadra visibile di Apple, cioè quelli che vanno sul palco, cioè non Tim Cook, ma appunto quelli che menzionavo prima, Phil Schiller e gli altri capi di divisione. E probabilmente ci sarà anche comunque una visibilità da parte di Tim Cook. Ma quello che vorrei sottolineare, secondo me, è che la vera scommessa di Steve Jobs sarà capire se lui è riuscito a trasferire il suo DNA all'interno del gruppo di guida di Apple, ovvero sia se l'azienda che andrà avanti senza di lui in effetti ne porterà dietro la capacità di innovare, la visione, la strategia e tutto il resto. Grazie Antonio, buon lavoro e buon weekend, a presto. Grazie a te Enrico. Era Antonio Dini collegato con noi via Skype. A proposito di Apple, c'è una notizia della settimana che sta girando in rete, di cui si sta discutendo. Nicholas Allegra, in arte Comics, che è il papà, l'inventore di jailbreakme.com, il sito internet tramite il quale è possibile, si dice in gergo, craccare, jailbreakare ogni dispositivo iOS, quindi con il sistema operativo della Apple. Allegra inizierà uno stage alla Apple fra un paio di settimane, quindi è probabile che per l'iPhone 5 non ci sarà nessun jailbreak, quindi nessun sistema per forzare il sistema, per trasformarlo togliendo tutti i lucchetti che sono inseriti nel sistema operativo. Bene, adesso ci fermiamo per circa un minuto. Notizie da strade e autostrade in questo weekend di traffico. Poi continuiamo a parlare di Steve Jobs con Carolina Milanesi. Abbiamo anche alcune notizie che riguardano sia l'Italia, la tecnologia in Italia, che la tecnologia nel mondo. Ci risentiamo tra poco più di un minuto. 2024. Riprende questa puntata di 2024. Vi ricordo che dal 10 settembre abbandoneremo la versione estiva ridotta di 2024, riprenderemo la nostra versione, potremmo definirla autunno-inverno-primavera, il sabato pomeriggio tra le 15.30 e le 17, con la partecipazione anche degli ascoltatori in diretta ogni weekend. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. In questa puntata stiamo parlando dell'abbandono di Steve Jobs, che lascia la carica di amministratore delegato a favore di Tim Cook, diventerà presidente. Ne continueremo a parlare tra poco con Carolina Milanesi, collegata con noi da Londra. Adesso alcune notizie. La prima riguarda l'Italia, in particolar modo la spiaggia di Rimini, dove è stata attivata da un paio di settimane la rete Wi-Fi Luna di Future 3. È possibile accedere gratuitamente ad internet in 40 bagni della riviera. Alcuni di voi ricorderanno che abbiamo parlato qualche mese fa di questa rete, si chiama Luna, che è nata e si è estesa in Trentino e ora sta allargando la copertura in altre aree dell'Italia. Stiamo parlando di una rete Wi-Fi. La novità di questo network è che unisce l'accesso gratuito ad internet alla possibilità di erogare pubblicità locale. Ad esempio, un bar può dare accesso gratuito ad internet ai propri clienti e in cambio erogare pubblicità mentre un cliente naviga. Quindi c'è anche un collegamento tra questa pubblicità e il luogo dove questa pubblicità viene erogata. È molto interessante. Qualche settimana fa avrete sicuramente sentito, ne abbiamo parlato anche a Radio 24, della decisione di Starbucks, famoso negli Stati Uniti per dar gratuitamente il collegamento ad internet, di smettere questa politica che l'aveva reso famoso in tutto il mondo. Forse questa soluzione, potremmo definirla all'italiana, grazie al genio italiano, sarebbe una soluzione di compromesso, perché effettivamente alla base della decisione di Starbucks c'è questo problema, cioè i clienti stanno molto tempo collegati ad internet al bar, consumano magari poco. In questo caso c'è almeno una contropartita: ti do l'accesso gratuito al Wi-Fi, che è un motivo per attirare nuovi clienti, ma in cambio erogo pubblicità, che non necessariamente è pubblicità di miei servizi, può anche essere pubblicità di partner commerciali o di altre cose che stanno attorno. Che ne so, un cinema vicino ad un bar potrebbe suggerire ad una persona che sta in quel bar di andare a vedere il tal film alla sera. Insomma, la tecnologia non manca, a questo punto manca la fantasia, ma la fantasia, insomma, ha spazi per esprimersi. Sicuramente interessante, riparleremo di questi servizi che stanno nascendo, crescendo e si stanno diffondendo anche in Italia. La TV satellitare Sky Italia ha lanciato un'applicazione che si chiama Sky Go per vedere da questo weekend 20 canali del bouquet Sky su iPad e tra qualche settimana anche sui tablet con sistema operativo Android 3.0. Il servizio è riservato agli abbonati Sky, gratuito fino alla fine dell'anno, e poi avrà un costo che varia dai 3 ai 7 euro, naturalmente oltre l'abbonamento che già uno paga alla TV. Molti dicono che il futuro della TV è internet e sicuramente questa mossa di Sky ci suggerisce che effettivamente forse sarà così, ma c'è chi dice che il futuro di internet sarà la TV. A parte il gioco di parole, Google questa settimana ha confermato che continua a pensare alla propria offerta in questo settore, quindi nella TV, nonostante il mezzo flop della Google TV lanciata ad ottobre negli Stati Uniti. Pochi giorni fa Eric Schmidt, che adesso fa il presidente della società, ha detto che il prossimo anno il servizio con i relativi decoder verrà lanciato anche in Europa. In bocca al lupo. Secondo dati diffusi da DoubleClick, che è una società del gruppo Google, Facebook ha raggiunto, pensate, a giugno 870 milioni di utenti unici che hanno visualizzato oltre 1 miliardo di pagine, con una media di 1149, insomma, per essere precisi, pagine per ogni utente. Secondo Facebook, gli utenti registrati sono invece 750 milioni e quindi i conti non tornano, ma la differenza tra le due cifre sta nel fatto che DoubleClick segnala questi 120 milioni di utenti in più perché calcola il numero di utenti non registrati che visitano comunque il sito tramite link da altri social network o attraverso i motori di ricerca. Per la cronaca, il sito più frequentato al mondo rimane comunque google.com, seguito da Facebook e da YouTube. A proposito di Google, Google ha patteggiato per 500 milioni di dollari la chiusura di un'inchiesta del governo americano sulla pubblicità online di alcune farmacie canadesi che hanno venduto illegalmente i loro prodotti a cittadini americani tra il 2003 e il 2009. Si tratta di farmaci che in territorio americano potevano essere venduti solo dietro prescrizione medica, e quindi in questo modo, invece, attraverso la pubblicità fatta sul motore di ricerca, queste farmacie riuscivano a bypassare questi divieti. Un'ultima notizia riguarda la battaglia legale tra Apple e Samsung. Samsung accusata di avere copiato e violato alcuni brevetti della Apple. L'ultimo capitolo è questo: una corte olandese ha vietato la vendita del Galaxy S2, Galaxy S e Ace in alcuni paesi europei per violazione di brevetto. Tra questi paesi, per la cronaca, non c'è l'Italia. Nel frattempo continua anche la vicenda che contrappone le due aziende in Germania. Il 9 settembre la corte di Düsseldorf deciderà definitivamente se Samsung ha copiato o meno il design dell'iPad per fare produrre il Galaxy Tab 10.1. Per il momento il prodotto non può essere venduto in Germania. Saluto Carolina Milanese, che è responsabile della divisione Mobile Devices, quindi i terminali mobili, analista di Gartner. Bentornata a 2024. Grazie. Voi pensate che l'abbandono di Steve Jobs, che lascia la carica di amministratore delegato, possa influire nel breve periodo, medio periodo, sulla strategia dell'azienda, e in che modo eventualmente? No, sicuramente a livello di prodotti e di direttiva dell'azienda. Le cose non vengono decise da settimana a settimana, ma vengono decise da anni e anni, e quindi ci possiamo aspettare già di sapere quello che accadrà tra adesso e la fine dell'anno. Tutti i pettegolezzi che abbiamo letto in diversi articoli su che prodotti arriveranno, iPhone 5 e via dicendo. E poi, anche per ammissione dell'Apple stessa, loro dicono che hanno il portafoglio prodotti già deciso per i prossimi 2 anni. Normalmente per un'azienda di questo settore, grosso modo, di quali tempi parliamo per lo sviluppo di uno smartphone o di un altro tipo di, che ne so, un tablet, dall'idea alla messa sul mercato? Dipende dal prodotto, ma andiamo da un minimo di 9 mesi a 2 anni. Vi sarete domandati anche voi invece che cosa potrebbe cambiare sul medio-lungo periodo? Cioè, la domanda che molti si fanno è riuscito Jobs a creare una vera e propria squadra per riproporre anche nel futuro le idee geniali che abbiamo visto in questi ultimi anni? È difficile quando cerchi di rispondere a questa domanda, perché se parli di Steve Jobs in maniera troppo positiva sembra che poi il resto dell'Apple effettivamente non abbia nessuna capacità, no? Sì. E invece se parli del team sembra che togli credito a Steve Jobs, che assolutamente non è il caso. Lui è l'Apple, ha creato l'Apple come la conosciamo oggi, e quindi sarà sicuramente una forza mancante, se vuoi, ma parte di aver creato questa Apple che conosciamo è aver creato un team di persone che, da Tim Cook a John Ivey a Phil Schiller, tutti contribuiscono a questo successo. Voi pensate che l'immagine che Steve Jobs, a partire dalle presentazioni che sono soprattutto negli ultimi anni diventate dei grandi spettacoli, che hanno avuto una eco sulla stampa molto elevata, ecco, che tutto ciò possa in qualche modo influire sul marketing dell'azienda, perché buona parte del marketing è stato lui stesso? Questo secondo me è il rischio più grande che ha Apple, no? Questo carisma, che non è una cosa che impari, è una cosa che hai, che è naturale tua, e che secondo me al momento nessun altro nell'industria, non solo a livello di Apple, ma nell'industria ha. E queste sono le situazioni dove c'è più un'incognita, non tanto magari dal punto di vista di brand per quello che riguarda il consumatore. Alla fine il consumatore compra un prodotto Apple, non compra un prodotto di Steve Jobs. E mi chiedo onestamente, se tu vai in un negozio della Apple al weekend, quante persone ti sanno dire chi è il CEO di Apple. Quindi quello non mi preoccupa. Quello che magari il punto di domanda è: se ci dovesse essere una situazione come la famosa Antenna Gate, abbiamo una persona che ha quella presenza di palcoscenico, che ha Jobs per riuscire a rispondere a quelle che sono le preoccupazioni del pubblico, piuttosto che magari un attacco dei competitori, in maniera così alla Jobs, proprio in maniera diretta e forte. Grazie Carolina Milanesi, a presto e buon lavoro. A presto, arrivederci. E così concludiamo questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Tra poco sarà disponibile questa puntata attraverso il servizio podcast di Radio 24, quindi potrete scaricare il file MP3. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento alla prossima settimana. nel pomeriggio di sabato di Radio 24. Un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 2024. 31 seconds.